Hadith numero 31 da Abu Abbas Sahl bin Sa'd al-Saidi, che Allah si compiaccia di lui, disse: venne un uomo al profeta, che Allah lo benedica e la bengloria, e disse: o apostolo di Allah, indicami una linea di condotta che, se io seguo, mi farà amare da Allah e mi farà amare dalla gente. Disse: rinuncia al mondo e Allah ti amerà, rinuncia a ciò che la gente ha e la gente ti amerà. L'hanno riferito Ibn Majah e altri con buone catene di trasmissione.